Capitolo 4. Il salotto della famiglia Igumnov non è più arredato come un tempo. Brande da ospedale e armadi robusti hanno sfrattato tavoli e sedie imbottite. Anche lo spazio ha cambiato aspetto, suddiviso in tre stanze, ma le pareti affrescate e le bifole posticce testimoniano il cattivo gusto dell'antico padrone. La capo infermiera Korzak intinge nell'etere un batuffolo di cotone e lo strofina sul braccio di un giovane di 20 anni. Accanto a lui si è appena sdraiato un uomo sulla 60. Il direttore dell'istituto gli si avvicina. Aleksandr Aleksandrovich Malinovsky, meglio noto con lo pseudonimo di Bogdanov, passa in rassegna i sintomi della malattia che ha portato a Mosca il paziente. Incarnato pallido, espressione contratta, occhi affossati in un groviglio di rughe. Proprio una brutta cera. Lo chiamano esaurimento sovietico, nevrastenia, colpisce in tutta Europa, ma qui con particolare virulenza. Per lo più giovani, senza però risparmiare gli anziani. Suicidi in aumento, da un capo all'altro dell'Unione. Uomini terrorizzati da impotenza, polluzioni notturne, eiaculazione precoce o nanofobia. Le donne lamentano meno problemi, ma non significa che stiano meglio. Vergogna di confidarsi a un dottore maschio. Abitudine a soffrire in silenzio. Da Parigi a Mosca, le cause dell'epidemia sono guerra, fame e conflitti sociali. Qui ci sono stati ancora 4 anni di morti, battaglie, il paese mutato in una immensa caserma. Con la vittoria sui bianchi si pensava che la storia desse tregua. Al contrario, cambiare vita è faticoso, anche quando si tratta di migliorarla. La rivoluzione mette alla prova i nervi, scatena crisi di identità. Agli operai si chiede di studiare, alle donne di lavorare come gli uomini, ai sottoposti di assumersi responsabilità, ai ribelli di andare al governo. I pezzi grossi del partito sono stremati dal potere. Chiedono vacanze che non li ristorano, accusano una stanchezza cronica, hanno bisogno di sangue fresco. Persino Krasin, quell'uomo così brillante, esplosivo come le bombe che costruiva, sognando un ordigno micidiale grande quanto una noce. Se 2 anni fa ci fosse già stato questo posto, sarebbe guarito. Un vero ciclo di trasfusioni invece di una sola in un laboratorio domestico. Donatori, attrezzature, una stanza per il ricovero. Ha guadagnato appena qualche mese di vita, ma non è stato inutile. Niente lo è davvero. Ogni cambiamento modifica l'equilibrio tra un sistema e il suo ambiente. La sua importanza dipende dalla scala di misura. Senza la temporanea remissione di Krasin, Stalin non si sarebbe incuriosito. Interessante, quindi si può guarire? E come ci siete riusciti? Senza la curiosità di Stalin non sarebbe nato l'istituto. Senza l'istituto non arriverebbero i funzionari esauriti in cerca di sollievo, come questo Filippenko. E senza i pazienti come Filippenko non ci sarebbero i fondi per studiare il collettivismo fisiologico, il comunismo del sangue, che un giorno, come ha scritto la Pravda, consentirà di curare le malattie grazie alla vitalità dell'intero corpo sociale. Bogdanov si china sul malato e lo invita a spalancare la bocca. La lingua pare una bistecca imputridita. «Avete dormito bene, compagno Filippenko?» «Non più di ieri», sbuffa l'altro, «la solita insonnia». Il dottore afferra il polso del paziente per controllare le pulsazioni. «Stanotte andrà meglio, vedrete. Mia moglie vi ha già presentato Igor Vasilievich?» Filippenko guarda il suo vicino e il capannello di camici bianchi che lo attorna. «È il donatore?» bisbiglia rivolto a Bogdanov. «Non mi avevate detto che ci saremmo incontrati? Meno gente sa di questa mia malattia e meglio è». Il direttore lo tranquillizza. Le informazioni sulla sua salute non usciranno dall'istituto. «Anche se la trasfusione sarà indiretta», aggiunge, «trovo salutare che 2 individui, prima di condividere il sangue, abbiano modo di conoscersi». «Sarà anche salutare», protesta il paziente, «ma non vi pare pericoloso? Un domani il donatore potrebbe rinfacciarmi di essere guarito grazie al suo sangue e...» «Dubito che lo farebbe», lo interrompe Bogdanov, «dal momento che anch'egli avrà beneficiato del vostro». Filippenko aggrotta le sopracciglia, una maschera di perplessità ostentata. «Sarebbe a dire?» Bogdanov finge di dedicarsi a un groviglio di tubicini che spunta da un cassetto. Sempre la stessa storia. Dirigenti che frignano e reclamano perché anche il loro sangue verrà succhiato, trasferito nel corpo di un altro. Il collettivismo fisiologico non è un affare da vampiri. Bisogna chiarirlo meglio nel colloquio preliminare. Senza reciprocità, la trasfusione non è davvero terapeutica. Il sangue giovane non basta. Conta anche la gioia dello scambio, il dono vicendevole. I pazienti invece sono turbati. Sapere che una parte di loro vivrà dentro un'altra persona non li entusiasma. Neanche si trattasse di un pezzo di cervello o di liquido seminale. Non mi avete risposto. Filippenko torna all'attacco. Natalia Korzak ripone la boccetta di etere e va in soccorso al marito. Il nostro Igor Vasilievich, indica il donatore, è uno degli studenti più brillanti della facoltà di medicina. Si è offerto volontario per questa trasfusione dopo aver studiato a fondo la teoria che la sottende. Prego, Igor, volete spiegare voi al compagno Filippenko come avverrà lo scambio? Il ragazzo pettina con le dita un ciuffo biondo, sistema il cuscino dietro la schiena e si appresta a parlare. Gli uomini in camice si voltano verso di lui. Bogdanov tende l'orecchio, mentre continua a districare i tubi. La cura, esordisce lo studente, consiste nel trasfondervi un litro del mio sangue. Questo mi è chiaro, si affretta a dire Filippenko. Di conseguenza, occorrerà fargli spazio, ovvero levarne la stessa quantità. E siccome il donatore, cioè io, avrò bisogno proprio di un litro di sangue, ecco che il vostro tornerà buono per sopperire alla mia mancanza. Ma così vi troverete con un litro di sangue vecchio e malato, obietta il paziente. Voi, dottor Bogdanov, dice per coinvolgerlo, mi avete detto che il sangue giovane del donatore curerà la mia debolezza, ma allora perché il mio sangue debole non dovrebbe danneggiare lui? Il direttore si rassegna a parlare. Servono parole semplici, servono sempre. Il sangue del giovane porta nel corpo dell'anziano una maggiore energia. Il sangue dell'anziano trasmette al giovane i frutti di una più lunga esperienza. La condivisione fa la forza. Filippenko non pare convinto. Vasilievich coglie l'occasione di mettersi ancora in mostra. Gli pare che Bogdanov lo inviti a proseguire. Considerate la tubercolosi, dice scegliendo l'esempio preferito del direttore. È un'infezione molto diffusa che spesso si contrae in giovane età. Voi stesso avete buone probabilità di essere entrato in contatto con la malattia e di averla sconfitta. Un guizzo di intuizione sul volto di Filippenko, incoraggiante. Scambiando il vostro sangue con il mio, voi mi trasmettete quell'immunità, senza per questo perderla, e in compenso guadagnate vigore. Il risultato è salutare per entrambi, perché la vitalità di un sistema, di un essere umano come di un motore, non dipende solo dalla sua energia, ma anche dal modo in cui è organizzata, quella che il dottor Bogdanov chiama tectologia. Il direttore appare rinfrancato. Ascoltare le proprie teorie, illustrate da un giovane entusiasta, è un toccasana per l'umore. Fa ritrovare il piacere della ricerca, così spesso svilito dalle incombenze dell'istituto. Quando la trasfusione sarà una pratica diffusa, dice solenne, e ciascuno scambierà il sangue con individui diversi, questo innalzerà il livello di salute collettiva, come quando più cervelli ragionano insieme sullo stesso problema. A volte più cervelli fanno confusione, commenta Filippenko ancora diffidente. Quali sono le prove della vostra teoria? Il viso di Bogdanov si contrae, ma dura un attimo. Non bisogna cedere alla delusione. Questo istituto è il primo del suo genere in Unione Sovietica, dichiara con orgoglio. In un anno di lavoro abbiamo condotto con successo oltre 200 trasfusioni, ma le prove della mia teoria sono molte di più. Sono in tutto quanto accade. La congiunzione è vita, la disgregazione è morte. Vale per i protozoi come per l'Homo sapiens. Vogliamo procedere? Un grugnito di assenso è meglio di niente. Il direttore chiede ai tirocinanti di uscire dalla stanza. La seduta deve cominciare e il paziente ha bisogno di rilassarsi. Restano Natalia, due assistenti e il dottor Vlados, un giovane sulla trentina con i capelli scuri pettinati all'indietro, il naso a punta e le labbra carnose. A prima vista, a giudicare dal cognome, lo si direbbe più balcanico che russo. Bogdanov sta per domandargli di cosa ha bisogno quando il compagno Filippenko si mette a sedere sul letto. «Voglio rimandare questa faccenda dello scambio di sangue. Voglio pensarci su, voglio consultare il mio medico». Mai cantare vittoria troppo presto. «A voi la scelta», concede Bogdanov. Ma da come allarga le narici, Natalia capisce che sta per esplodere. «Sasha», gli suggerisce, «vedo che il dottor Vlados ha bisogno di parlarti. Perché non sospendiamo un momento? Intanto posso mostrare al paziente gli strumenti per la trasfusione e illustrargli la procedura. La sua semplicità non potrà che convincerlo a proseguire la seduta». Il direttore annuisce e ringrazia con un cenno del capo. Quindi fa segno a Vlados di seguirlo verso l'angolo opposto della stanza, decorato da un asfissiante motivo floreale. «Cerchiamo di avere un occhio di riguardo», attacca il giovane medico. «Il compagno Filippenko è molto stimato nella sezione di Smolensk». Bogdanov accoglie la notizia sbuffando. «Harlan P. Vlados è un ematologo brillante. È stato giusto offrirgli il lavoro all'istituto. Ottima posizione per uno della sua età. Peccato che lo zelo per il partito lo renda simile ai collaboratori imposti dal commissario Semashko». «È questo che dovevate dirmi?» «No», si affretta a rispondere Vlados. «Ho controllato le analisi. Credo che sarebbe meglio ripetere il test della sifilide». Col dito indica il valore anomalo sul foglio. Un tipo scrupoloso, Vlados. Si attacca ai dettagli per non dire che dubita dell'intero edificio, di una cura basata sulla filosofia più che sulla scienza, come se le due materie fossero davvero separate. Un istituto trasfusionale diretto da uno scrittore di romanzi fantastici, più che da un medico di professione, con un curriculum accademico non all'altezza dell'incarico. 2 anni di scienze naturali all'università, poi medicina, ma prima di sostenere un solo esame, l'arresto, per aver partecipato alla manifestazione contro il professor Kliuchevsky e il suo elogio funebre dello zar, espulso da Mosca con obbligo di dimora nella città di residenza. Cosa ne può sapere Vlados della vita spesa da altri, quando lui era un neonato e il Partito Socialdemocratico non esisteva ancora? Una laurea presa a Kharkov in psichiatria nell'ultimo anno dell'Ottocento, festeggiata in galera, 5 mesi per propaganda politica tra i lavoratori. Durante gli studi, la stesura di un manuale di economia politica e la traduzione del Capitale di Marx. Quando c'era il tempo di fare pratica? Il padre del suo vecchio amico Bazarov aveva uno studio medico a Tula, qualche mese con lui, poi 9 al manicomio di Kuvshinovo. Un periodo breve sul calendario, ma abbastanza per rischiare il contagio. La follia. Passano 12 anni, scoppia la guerra. Il fronte è una ferita aperta che trabocca di corpi mutilati. All'ospedale da campo non chiedono referenze, incarichi precedenti. Non importa se le budella di un uomo le hai viste solamente al corso di anatomia. Presto, cuci quella pancia. In confronto il manicomio è una serata a teatro. 1 anno di mattatoio e altri 2 a Mosca. Nelle retrovie. Ecco la pratica. Bogdanov torna a concentrarsi sui numeri. Reazione di Wasserman. Assenza di reagine nel siero del paziente. Possibile errore tecnico. «D'accordo», dice alla fine. «Ripetiamo i test. Quanto tempo ci vorrà per i risultati?» 24 ore», risponde Vlados. Bogdanov muove la testa in cenno di assenso. «Rimandate a casa il volontario e trovate una stanza per ricoverare Filippenko». Prima di allontanarsi, riconsegna i fogli delle analisi al giovane dottore. «E mi raccomando, abbiate un occhio di riguardo».